America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Cleveland, Mario Platero. Donald Trump ce l'ha fatta, ha chiuso la convention repubblicana, ha accettato la nomination per concorrere per la presidenza degli Stati Uniti. Sentiamolo, perché il suo discorso è stato lungo ma travolgente. I choose to recite a different pledge. My pledge reads, I'm with you, the American people. Ecco, questa è la parte finale dove a passo di carica Donald Trump dice: il mio avversario, cioè Hillary Clinton, chiede ai suoi sostenitori fedeltà con tre parole: io sono con te. Io invece ho scelto di far recitare un impegno diverso. Io sono con voi, il popolo americano, sono la vostra voce. Quindi per ogni genitore che spera per il proprio figlio, per ogni bambino, un futuro migliore, dico che questa sera io sono con voi, mi batterò per voi, vincerò per voi. A tutti gli americani questa sera, in tutte le città, a tutti i paesi, faccio questa promessa. Renderemo l'America strong again, proud again, safe again, renderemo l'America forte, orgogliosa e soprattutto sicura. È stato un discorso, devo dire, un po' lunghetto, 1 ora e 16 minuti, ma anche un discorso per una volta denso di dettagli, di fatti, di statistiche. Non credo che Donald Trump potrà essere accusato questa volta di superficialità. Con una nota di fondo, Trump ha promesso ordine e rispetto della legge. Questi sono stati i due, direi, fili conduttori di questo lungo discorso, una promessa per salvare un paese in caduta verticale per la doppia gestione di Barack Obama e di Hillary Clinton. Un discorso anche denso di compassione, di promesse per le comunità più povere, per le comunità afroamericane costrette, ha detto Trump, a vivere in dei ghetti per le politiche disastrose del passato dei democratici. L'evento è stato storico per la stessa vittoria di Trump, la vittoria di un outsider che aveva, pensate, prima di partire con le primarie aveva l'1% di probabilità di farcela, e lui stesso l'ha ricordato durante il discorso. Ma è stata storica questa convention perché aveva generato a un certo momento una gran confusione all'interno dell'establishment. Sembrava che dovesse esserci una convention broker e invece non c'è stata. Grande cambiamento nella leadership del Partito Repubblicano, che alla fine si è affiancato a Trump. Ma c'è stata anche una denuncia aperta e diretta della correttezza politica e uno dei discorsi preliminari, decisamente interessante. Sentiamo. Every American has a unique identity. I am proud to be gay. I am proud to be a Republican. But most of all, I am proud to be an American. Ecco, a un certo punto ieri sera ha parlato Peter Thiel, è il fondatore di PayPal, un imprenditore, un miliardario high tech. In genere i miliardari high tech sono schierati con i democratici, e invece Thiel si è aggiunto alla sfida anticonformista di Donald Trump. Thiel è stato anche uno dei primi investitori in Facebook, pensate, ha investito $500,000 e adesso solo da quell'investimento ha un valore di 500 milioni, tra l'altro è nel consiglio di amministrazione di Facebook. Ma la prima volta, l'aspetto storico di questo discorso è che ha parlato uno speaker gay, perché Thiel è gay, non l'aveva mai rivelato ufficialmente, lo si sapeva, ma lui non l'aveva mai ammesso fino a ieri sera. È uscito dal closet, come si dice in America, proprio nella notte della convention repubblicana. Anche questo è un fatto senza precedenti. Poi devo aggiungere che Trump ha anche ricordato gli eventi di Orlando, dove decine di gay e lesbiche sono stati uccisi da un terrorista. Sentiamolo. I will do everything in my power to protect our LGBTQ citizens from the violence and oppression of a hateful foreign ideology. Ecco, avete sentito Trump, un candidato repubblicano che parla di gay e lesbica. Anche questo è un fatto nuovo, e dice: non solo annienteremo i terroristi dell'ISIL, ma proteggeremo la nostra comunità gay, lesbica, transessuale, bisessuale, indecisa, LGBTQ. Mai prima d'ora, devo dire, si era parlato così apertamente di gay e lesbiche a una convention repubblicana. Nearly 4 in 10 African American children are living in poverty, while 58% of African American youth are now not employed. Ecco, dopodiché nel suo discorso molto strutturato, prima i fatti che portano l'America verso una spirale negativa, dopodiché i colpevoli Barack Obama e Hillary Clinton, poi le soluzioni e infine le promesse di un futuro migliore. Ecco, primo capo d'accusa contro Barack Obama c'è stato per non aver rilanciato davvero l'economia, per non essersi occupato dei derelitti, per non aver incoraggiato il superamento vero delle divisioni razziali. E dice Trump, quasi 4 bambini afroamericani su 10 vivono in condizioni di povertà, il 58% dei giovani afroamericani non hanno un lavoro, altri 2 milioni di latinoamericani sono oggi in condizioni di povertà rispetto a quando il presidente Obama è entrato in carica, altri 14 milioni di americani hanno abbandonato la ricerca di un posto di lavoro, i redditi delle famiglie sono scesi di oltre $4,000 dal 2000 ad oggi. America is far less safe and the world is far less stable than when Obama made the decision to put Hillary Clinton in charge of America's foreign policy. Poi Trump è passato alla politica estera, ai disastri, ha detto, di Hillary Clinton, la sua antagonista democratica che accetterà la sua nomination la settimana prossima a Filadelfia. E Trump, in questo passaggio che ho fatto sentire, dice: disastri ci sono stati in Libia, in Egitto, in Siria, abbiamo chiuso un accordo pessimo con l'Iran, ma l'eredità di Hillary Clinton non deve essere l'eredità americana. I problemi che abbiamo di fronte oggi, povertà, violenza in casa, guerra, distruzione all'estero, dureranno solo finché continuiamo a fare affidamento sugli stessi politici che li hanno creati. Un cambio di leadership è necessario per modificare lo status quo. Ecco, questa è la parte più politica, più interessante del discorso. In varie parti di questo discorso c'è stato un cambiamento di leadership, cambiamento di establishment, ma anche un messaggio trasversale. Di fatto, dice Trump, siamo pronti ad accogliere i milioni di americani che hanno votato per Bernie Sanders, perché per loro faremo esattamente quello che voleva fare lui, proteggere i nostri commerci. Trump ha anche strizzato l'occhio al Michigan, alla Pennsylvania, all'Ohio, stati chiave per le elezioni a novembre, promettendo di riportare lavoro manifatturiero. Nonostante tutto, insomma, nonostante il tradimento di Ted Cruz, nonostante il plagio di Melania del primo giorno, nonostante la mancanza di un programma coerente distribuito nei vari giorni, c'erano anche molti spalti vuoti, quindi poca organizzazione, credo, nella strutturazione della convention, il trionfo alla fine c'è stato. Le urla, le acclamazioni, gli slogan per Donald Trump e il suo messaggio semplice, sempre diretto alla pancia del paese, ha avuto successo. E nel tripudio generale finale i palloncini tricolori bianchi, rossi e blu hanno chiuso questa festa quadriennale repubblicana, proclamato un leader improbabile e messo un'ipoteca più seria di quanto ci si potesse aspettare sulla Casa Bianca del 2016. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Donald Trump ha chiuso le sue fatiche, è davvero il candidato per la Casa Bianca 2016, dunque non posso che proporvi di Gary Glitter, I'm the leader of the gang, I am. Cleveland è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento alla settimana prossima a Filadelfia per la Convention Democratica. Goodbye and get going!